Bene, buonasera Donatella. Buonasera. Ben trovata, Donatella Polvara. Presentati. Così. Beh, allora diciamo che questo libro è nato un po' dall'idea che avevo delle mie passioni, dall'idea di trasmettere qualcosa innanzitutto ai soci del CAI, perché faccio parte del comitato scientifico del CAI Lombardia, quindi mi sono sentita a un certo punto, dopo 10 anni di attività, di comunque dare qualcosa che ha la passione per la montagna in primis, ma anche chi deve affrontare tutti quegli ambienti estremi che sono l'Antartide e il Polo Nord. E allora ho studiato un po' la storia, ho fatto un ripercorso storico di come si sono alimentati gli alpinisti e gli esploratori del passato, e sono emerse tante belle cose e le ho collegate all'alimentazione dei popoli degli ambienti estremi. Ho fatto ricerche scientifiche in campo nutrizionale e diciamo che ho capito che l'alimentazione che si deve fare in determinati ambienti deve essere studiata meticolosamente, cioè i vincitori tornano a casa vincenti, gli alpinisti, gli esploratori vincitori che tornano a casa vincenti sono quelli che hanno studiato meticolosamente l'alimentazione. Lo dice la storia, i popoli che abitano negli ambienti estremi sono un esempio, e dobbiamo trarre un esempio di vita da questi popoli, da questa alimentazione. Quindi ho studiato un metodo di alimentazione per l'altissima quota e per l'ambiente estremo polare, e questo è il risultato di anni di studio. Donatella Polvara è biologa, nutrizionista, direttrice del laboratorio della Casa di cura di Lecco, membro del comitato scientifico CAI Lombardia ed è autrice del libro appunto L'alimentazione in ambiente estremo, l'alta quota e l'ambiente polare. Però ad animare questo libro è soprattutto la passione. Sì, sì, è vero. È vero, non sono una scrittrice, non sono una giornalista, non sono un alpinista, sono una persona comune che ama la montagna, ho la passione fin da piccola per lo sci, per lo sci nordico, per fare piccole cose in montagna, non imprese estreme, ma comunque con gli anni mi sono sempre più legata all'alpinismo e quindi ho pensato di scriverlo per pura passione. Il primo libro che ho scritto, quindi si può anche pensare la fatica che ho fatto, perché non è facile trovare le parole giuste e trasmettere agli altri quello che hai nella testa, perché è facile avere i concetti, ma poi devi cercare di renderli leggibili anche dagli altri, ed è molto difficile scrivere. E ho fatto tanta fatica, ma è stata la passione predominante che mi ha portato a questo risultato, piccolo risultato. Diciamo che hai dovuto fare un'analisi approfondita di quello che è il criterio del fabbisogno specifico. Sì. Vediamo il video? Sì, vi faccio vedere il video che vi trasmette proprio la mia passione per questo lavoro che faccio, che lo faccio diciamo in aggiunta a un lavoro primario che è la biologa analista di laboratorio. E dunque dopo le 5, le 6, quando finisco l'attività di laboratorio, inizio a scrivere quando ho tempo. In più ho seguito alcuni alpinisti e recordmen che hanno fatto il loro record del mondo e si sono affidati a me e mi hanno chiesto come alimentarsi, io li ho seguiti da questo punto di vista. Scoprire nuovi ambienti e raggiungere luoghi incontaminati ha sempre affascinato l'uomo. I deserti, le distese di sale, l'ambiente polare, le profondità dei mari. Poi c'è la montagna, con le sue alte vette, ambienti diversi fra loro, ma tutti accomunati dalle condizioni estreme. Il ghiaccio della calotta antartica, il cielo visto dall'alta quota, ambienti diversi ma accomunati tutti dallo stesso colore, il blu. Oltre il blu, alimentazione in ambiente estremo. Con il racconto di una biologa nutrizionista con la passione per il trekking e per i viaggi, che ama scrivere e considera l'apporto calorico e dei liquidi vitale come lo è l'ossigeno per affrontare l'alta quota. Un viaggio viaggio nelle tradizioni alimentari dei popoli riusciti ad adattarsi e a sopravvivere grazie ai principi nutrizionali che l'ambiente ha offerto loro, nella convinzione che la natura offra il nutrimento per poter vivere in ambienti dai climi ostili. Un racconto che ripercorre la storia di come si sono alimentati gli esploratori del passato e come si sono evolute le tecnologie alimentari adottate dagli uomini che hanno sfidato le loro capacità di adattamento nei tempi moderni. Questo è l'ambiente in cui sono nata e cresciuta, fra un lago, il cielo blu e le montagne. Questi luoghi hanno influenzato in modo determinante il mio modo di essere, la passione per la montagna, la voglia di scoprire, di viaggiare. Qui si possono trovare grandi emozioni che sono la base per avere nuove idee e per costruire grandi progetti. Il freddo intenso, la scarsità di ossigeno, il caldo soffocante, il vento sferzante, condizioni che richiedono all'organismo delle buone capacità di adattamento, un'ottima preparazione fisica, mentale e una buona scorta di viveri per avere l'energia giusta per andare oltre i propri limiti. Ho intervistato i popoli che abitano negli ambienti più estremi del pianeta, gli Sherpa, gli Eskimesi, i Tuareg, e mi sono fatta raccontare le loro abitudini alimentari. Questa passione mi ha portato a conoscere persone davvero straordinarie, che io definisco speciali, perché la loro forza mentale va oltre il desiderio e la voglia di alimentarsi. Individui che sfidano le leggi della natura selvaggia in ambienti proibitivi. Il cibo e i liquidi diventano decisivi e vitali e sono spesso i soli compagni di avventura. Elementi confortanti e dispensatori di energie gravano i commenti di una pausa meritata, come se fossero un caldo abbraccio rassicurante quando si ha realizzato il sogno di raggiungere la meta stabilita. Siamo al Manaslu, 8163 metri di altitudine, oggi, dopo ottobre 2016, alle ore 10 di mattina, da sole, mi trovo sull'ultima montagna più alta del mondo, e dico, questa intera scalata alle due persone più importanti della mia vita, che sono i miei genitori, e dico questa intera avventura a loro, perché è stato di loro, non sarei qui, su questa situazione. Dai Lugo, che è ancora un ottimo ritmo di crociata, 72 al minuto, vai che sei forte. No ragazzi, non ce la faccio più, non sono più io. Corrente contraria fortissima, è giunta la barca. Sì, sì, Leo, hai ragione, abbiamo dovuto allungare un po', però dagli qualche altro integratore, dai. Ascolta, credo. Ascolta, abbiamo appena superato da bene, non manca molto, il barcaiolo dice che tra poco dovremmo incontrare una corrente favorevole, quindi per favore, forza. Se te lo puoi, io, aspetta, non sei più, e che ora sta finito. Dai, hai ragione, però devi resistere, dai, mi fa, forza, dai. Quando ha fatto, ha attraversato la Manica e ce l'ha fatta attraversarla, grazie appunto a capire l'importanza dell'integrazione che va fatta ogni ora e fatta bene. La temperatura dell'acqua era molto fredda, era molto bassa, l'acqua era molto fredda. Freddo. Ha rischiato di ipotermia. Senti solo il battito del tuo cuore che ti dà l'ultimo per portartela a Dio. Ah! invece Danilo Bernasconi, che ha fatto il record del mondo di immersione a Faggeto Lario nel 2013. È stato sotto 3 giorni continuativi a 10 metri di profondità e al quale ho preparato un film. Ma se guardiamo la realtà, è ben diversa da questa. Una persona è andata oltre i propri limiti e ha realizzato i suoi sogni grazie ai miei consigli nutrizionali, questa cosa mi rende davvero felice. Un sogno è come un grande puzzle che pezzetto per pezzetto va immaginato con capacità, pazienza e determinazione. Alcuni pezzi del puzzle, come gli incontri con persone speciali o gli avvenimenti inaspettati, sono il puro frutto della casualità, ma contribuiscono alla realizzazione di un sogno come quello di spingersi oltre i propri limiti, esplorando gli sconfinati spazi del mondo. Oltre il blu, alimentazione in ambiente estremo. Bello e suggestivo. Notela, perché parliamo di alimentazione in ambiente estremo quando è già difficile parlare di alimentazione nel contesto della quotidianità? Eh già, è vero. Si parla di tutto, di diete iperproteiche, diete, la dieta della mela, la dieta del digiuno anche, perché adesso si è ricca l'aria anche di fare digiuno per 3 o 4 giorni. Parlare di alimentazione in ambiente estremo risulta un pochino strano e anomalo. E invece è importantissimo, perché l'alimentazione aiuta a mantenere le performance che si sono raggiunte con l'allenamento, perché quando si va al freddo, alla scarsità di ossigeno, ma anche al caldo intenso, se non hai preparato il corpo dal punto di vista fisico, non hai preparato la mente, ma non hai anche dei viveri adeguati in base alla tipologia dell'impresa che devi fare, ma comunque dobbiamo ricordare che l'ambiente estremo non è solo al Polo Nord, non è solo in alta quota, l'ambiente estremo può essere anche sulle nostre montagne, è facile trovare meno 20, è facile andare in montagna spesso sprovvisti dell'attrezzatura necessaria, adesso più persone vanno in montagna e secondo me la preparazione deve essere altamente alta come un tempo sì, la montagna si temeva. La montagna si amava e si temeva e oggigiorno è sempre diventata più un'abitudine andare in montagna, più persone la frequentano ed ecco che la preparazione deve essere il top, perché questo libro è stato visto anche come esplorazione della montagna, non tanto come l'idea di gareggiare, ma comunque anche chi va esplorando deve essere preparato dal punto di vista nutrizionale. Le calorie, lo sappiamo tutti, sono importantissime. Se non abbiamo le calorie adeguate nello zaino, ecco che allora non possiamo affrontare 1000 metri di dislivello più giorni di trekking. È importante avere un basso peso nello zaino con alto potere calorico, tutti i cibi che sono utili, e quindi bisogna un attimino studiare meticolosamente prima di andare. Ovvio che chi va già da anni ha una pratica, ha una conoscenza propria e quindi sa bene cosa mettere nello zaino. Chi lo affronta per la prima volta, sono le prime volte che va, oppure può spingersi oltre i propri limiti, ecco che allora è importante prepararsi da questo punto di vista. I grandi esploratori del passato, quando affrontavano l'ambiente estremo, come si alimentavano? Com'è cambiata l'alimentazione nel tempo? L'alimentazione è cambiata tantissimo grazie alle tecnologie. Sicuramente gli esploratori del passato erano grandi temerari, partivano col fucile da caccia e la canna da pesca. Tanti tornavano, tanti non tornavano, ahimè. E bisogna un attimino capire perché non tornavano. Non tornavano perché non avevano dei viveri a sufficienza e morivano di stento. Questo lo dimostrano le grandi imprese, dimostrano i diari che sono stati lasciati dai grandi esploratori come Robert Scott nel 1911, quando andò in Antartide, la chiamarono l'ultima spedizione perché morirono tutti, fecero tutti capute. Perché? Perché cambiarono le condizioni climatiche, non erano preparati a condizioni così estreme di vento fortissimo perché subentrò l'inverno in Antartide e erano sprovvisti di viveri perché li avevano finiti tutti, hanno dovuto rallentare la marcia, rallentando la marcia, ahimè, erano 9 membri dell'equipaggio, dell'impresa, pian pianino hanno dovuto razionare, più razionavano e a meno avevano le calorie per continuare la marcia. E ho portato un filmato che secondo me vale la pena che vi mostro perché proprio dimostra come si vestivano innanzitutto, perché non c'era l'abbigliamento che abbiamo oggi nel 1900, l'attrezzatura scarsa e l'alimentazione che era molto pesante perché portavano quintali di cose nelle casse trasportate da cavalli o cani che trasportavano le merci. Lo vediamo? Sì, sì, lo vediamo insieme. Ecco, Robert Scott portò i pony, questi, che si dimostrarono veramente inadeguati per quell'ambiente. Guardate che fatica facevano. Li hanno dovuti abbandonare e hanno dovuto portare tutto sulle spalle. Questa è un'altra impresa in montagna, in alta quota. E l'ho messa per mostrarvi come si alimentavano. Adesso si vede molto bene, a parte com'erano, che abbigliamento portavano. Erano molto più preparati per il freddo rispetto a noi, forse quello sì. Vedete, mangiavano tutti da una pentola che avevano portato e il rischio anche di malattie, perché non c'erano ancora gli antibiotici a quell'epoca. L'unica medicina che avevano era l'oppio, la morfina, che si portavano con sé. In casi estremi si gettavano la morfina. Mi ha colpito, studiando un attimino la storia, mi ha colpito un esploratore che adesso ve lo mostro e sicuramente sapete tutti, lo riconoscete al volo. Frederick Cook, adesso si vede non si vede benissimo perché è una foto un po' così, però questo uomo fu geniale, tornò a casa, andò al Polo Nord, tornò a casa, c'è chi dice che non lo raggiunse mai il Polo Nord e c'è chi dice che lo raggiunse, comunque tornò a casa. Si portò il pemmican, ho studiato la sua alimentazione e fra tutte le sue cose c'è il pemmican che è un super cibo, considerato un super cibo già ai nostri giorni, perché 100 grammi sono 1000 kcal, pensate che una barretta normale è 200 kcal, questo 1000, ed era composto da carne essiccata, di muflone, tricheco, si portò anche carne di tricheco essiccata e riuscì ad abbattere il peso. Riuscì a battere il peso portandosi tantissime kilocalorie. Un innovatore. Sì, un genio, stratega, sì. È vero secondo te che la natura offre tutti i principi nutrizionali utili per affrontare gli ambienti in cui ci troviamo? dalle tue esperienze, come si alimentano i popoli che vivono in ambienti estremi? Che lezioni di vita ci hanno dato e ti hanno dato nella tua analisi dei fabbisogni, nelle tue ricerche? Sì, mi hanno dato una grande lezione di vita e mi sono sempre chiesta: ma la natura offre tutti i principi nutrizionali per sostenere il corpo in quell'ambiente? E la risposta è sì, ma la risposta è sì non perché me l'hanno detto, ma perché l'ho studiato. Sono andata in Lapponia, nel 2006 e ho studiato l'alimentazione di questi popoli. Adesso vi faccio vedere un attimo dove ero, un attimino, tanto siamo un po' in famiglia, quindi possiamo anche permetterci un attimo qualche foto in più. Ecco, qua questa signora mi aveva ospitato a casa sua e suo marito, che faceva il boscaiolo, si portava con sé sempre dei panettini di burro in tasca e quando usciva al mattino, tanto c'era meno 20, per cui era come se avesse il congelatore in tasca, quindi erano sempre congelati, lui li mangiava direttamente così. E mi diceva che la colazione era il principale pasto del giorno per loro, ci impiegavano 2 ore a far colazione. Mangiavano cose molto grasse e io mi chiedevo: caspita, ma queste persone non hanno problemi di colesterolo? Perché se voi andate a vedere le ricerche, mostrano chiaramente che la popolazione del nord non muoiono per problemi cardiovascolari, sono come se fossero quasi senza problemi ischemici o problemi cardiaci. Hanno altre malattie, diabete sì, ma il problema del colesterolo non ce l'hanno. Allora mi sono chiesta come mai questi popoli, nonostante facessero questo tipo di alimentazione così spinta dal punto di vista di cibi grassi, perché mangiavano anche pezzettini di foca, pezzettini foca essiccati, e poi mangiavano la pelle di un pesce che è l'halibut, e queste cose qua. E allora mi chiedevo: ma come mai? Vabbè, innanzitutto hanno una predisposizione genetica per, eccoli qua, questo è un bambino, hanno una predisposizione genetica per rielaborare meglio i cibi grassi. In più stanno tanto al freddo, quindi il freddo ti fa bruciare tutte le calorie. Dunque, anche se noi d'inverno aumentiamo il nostro introito calorico con qualcosa di grasso, come lardo oppure il burro al mattino con la colazione, ci fa solo bene, perché se stiamo fuori tutto il giorno al freddo ci dà un'autonomia di 3 o 4 ore. Quindi se li mangiamo questi cibi grassi il mattino ci fanno solo bene. In più, vedete questi eschimesi? Il loro pesce è molto ricco di un grasso poliinsaturo, gli omega 3. Da noi, quando arriva sulle nostre tavole, queste peculiarità sono perse, vengono perse per le lavorazioni, ma il cibo fresco che hanno loro va a compensare i grassi, quelli dannosi. Quindi gli omega 3 che si trovano in questi tipi di pesci sono molto utili per combattere anche i grassi, quelli non buoni, quindi importante quello. Poi le vitamine, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D che troviamo in quegli alimenti che utilizzano loro, il latte di renna ha un contenuto di grassi che è il triplo rispetto al latte di mucca. I bambini là crescono con latte di renna, fanno le torte con latte di renna, lo yogurt, tutto a base di latte di renna. Però appunto non hanno problemi, è ricco di vitamina D. A noi i bambini danno da noi la vitamina D fin da piccoli. Il latte di renna è ricchissimo di vitamina D. Studiando un attimino, la faccio breve, ma studiando un attimino delle ricerche, innanzitutto questa ve la mostro perché si vede tantissimo, loro si muovono tanto, in più gli anziani trasmettono tanto ai bambini. Questa è una lezione di vita che secondo me è imparagonabile, perché questo bambino era con la nonna lì, abbiamo fatto circa 15 chilometri, non tantissimi, però lui stava al passo con la nonna gli spiegava come doveva fare. E questo mi ha affascinato molto, perché trasmettono ancora tanto ai loro bambini, i nonni. E dalle ricerche che ho fatto è uscito che, ricerche condotte in ambito militare, che alcune vitamine sono utili per mantenere il corpo al freddo, cioè hanno preso due categorie di militari, quelli che si erano alimentati in un certo modo, con vitamina D, vitamina A e vitamina C, e quelli che avevano fatto un'alimentazione normale, e si è visto da queste ricerche che chi aveva queste vitamine in più aveva la possibilità di permanere più a lungo al freddo, quindi termoregolazione più equilibrata e i brividi con la muscolatura più equilibrata e tutto quanto riuscivano a stare per più tempo al freddo. E quindi questa è la conclusione che ho messo sulla bilancia, come si alimentano loro, le ricerche cosa dicono, e ho tirato fuori il metodo di alimentazione che può utilizzare un europeo che non è abituato a mangiare grasso di foca, grasso di tricheco, perché bisogna avere anche gli enzimi per poter digerire questi tipi di alimenti, dai nostri cibi. Da questo tuo lavoro di ricerca, di analisi, hai dovuto fare sintesi. Che cosa è emerso da questa sintesi? Che riscontro si può avere nella quotidianità, nell'alimentazione quotidiana di ciascuno? Che è fondamentale. La regola base è che un po' di tutto non fa male. È una regola che dicevano i nostri nonni, e la possiamo ancora, è attuabile ancora oggi. E una regola importante che è uscita, adesso vi faccio vedere questa foto qua, che è questa, voi li riconoscete subito, 1953, esatto, Tenzing e Hillary, Everest. Cosa dà a Hillary? La cioccolata calda con i biscotti. Pensate che oggi una casa che produce integratori ha pensato di fare delle bustine monodose di cacao da dare agli alpinisti, e già nel 1953 loro utilizzavano il cioccolato. Quindi la storia non smentisce mai, cioè quello che hanno fatto i nostri avi lo possiamo, è consolidato. C'è solo un'ottimizzazione. Un'ottimizzazione. Quali sono i tuoi consigli per chi affronta la montagna? Diciamo proprio pratici. Ormai lo sportivo sa che il giorno dell'evento gara si deve alimentare in un certo modo, durante la gara si deve alimentare in un certo modo, dopo la gara si deve alimentare in un certo modo. Chi affronta la montagna invece? Sì, la montagna, come dicevamo prima, ecco, si può trasformare in un ambiente estremo. Questo non è tanto lontano, è sopra casa mia. Sembra di essere chissà dove, eppure... La griglia? Non è tanto lontano. Sicuramente bisogna essere attrezzati di tutto. Bisogna essere attrezzati di tutto. Importante per chi va in montagna è l'idratazione. Anche se fa freddo, anche se non sentiamo la necessità di bere, importante l'idratazione, perché il corpo va in deficit prima se non beve, se non introduce i liquidi e i sali minerali che sono contenuti nell'acqua. Si può spingere con magari qualcosa in più anche di naturale prima di arrivare all'integrazione forzata, anche per chi fa piccole escursioni, ma importante è bere. A questo punto vorrei dirvi, importantissima è classificare le acque in base al contenuto del residuo fisso. Se vado a camminare in montagna prenderò un'acqua che ha un residuo fisso molto alto, arrivare sui 700-800 mg perché è molto ricca di sali minerali. Poi in quest'acqua, se ci mettiamo un pochino di limone, ci fa solo bene perché è ricco di potassio. Adesso sappiamo tutti che il tè caldo è importantissimo. Questa foto è bellissima, è stata fatta in Alpezzello, e se c'è il rifugio va bene, il tè caldo è importantissimo, potete metterci del succo d'acero, del miele, perché il fruttosio agisce prima dello zucchero, del glucosio, quindi il fruttosio va benissimo, il limone va benissimo, se avete dello zenzero mettetelo che va bene, e chiaramente dovete sempre avere tutto il necessario, il panino, col prosciutto, con lo speck fa molto bene, è un ottimo integratore lo speck, è ricco di sodio, il corpo perde tanto sodio quando suda, fa bene, formaggio stagionato, speck, pane nero, le cose principali, e miele, andate ovunque con questo, avere sempre. È meglio, per esempio, campanile con lo spiega eccetera, o quegli integratori che ci sono da adesso? È la stessa domanda che mi sono fatta io. Allora sono andata a verificare la composizione dello spec e la composizione degli integratori. Più o meno siamo lì. Perciò dà più soddisfazione, non so se per esatto. Il gusto è fondamentale. Portarsi qualcosa che piace al palato è fondamentale. Che ti sazia. Che ti dà il piacere di essere arrivato in cima e ti gratifica. E in più, come composizione siamo lì, perché alcuni integratori sono anche troppo spinti, non ci serve tutta quella roba che c'è dentro. E il tè caldo sempre d'inverno, che può salvare la vita, perché tanti adesso partono un pochino, la colazione del mattino, ma la sapete meglio di me se andate in montagna, e importante è il recupero con le proteine, perché magari durante il giorno magari scarseggiamo un pelo di più, invece la sera una bella minestra con legumi, con anche le patate che fanno molto bene perché sono ricche di potassio, è tutto quello che serve per integrare quello che si è consumato durante il giorno. Proteine. E in corso d'opera meglio evitare la buffata al rifugio o posticiparla? Sì. Questa è stata una delle mie preoccupazioni maggiori, perché essendo lecchese ho rifugi da tutte le parti, a destra e manca, quindi quando facevo le serate a Lecco mi spiaceva anche dire non mangiate questo, non mangiate quello perché fa male. No, ho trovato che... Il compromesso. Esatto, il giusto compromesso. Se dopo una bella camminata riesco a mangiare la polenta con magari un po' di carne... Mi fa bene, però poi devo scendere. Devo coprirmi bene quando esco se fa freddo, lo stomaco, importantissimo per la digestione, e non posso pensare di affrontare altri 600-700 metri di dislivello in salita. Se mangio alla fine, alle 2, quando ho finito la mia escursione, allora posso concedermi anche qualcosa di in più al rifugio, al caldo, che fa solo bene. E poi c'è il discorso di cosa evitare assolutamente. Cosa evitare assolutamente e i cibi troppo grassi quando siamo in alta quota, evitare assolutamente l'alcol sopra i 3000 metri. Questo anche le indicazioni internazionali lo dicono, evitare l'alcol 48 ore prima di andare oltre i 3000 metri. Sotto i 3000 metri, parliamo sotto. Il vino rosso fa bene, non è vero che fa male il vino rosso fa bene, che è ricco di flavonoidi, ci aiuta per le arterie. Mezzo bicchiere, un bicchiere fa benissimo. Attenzione però per chi va in montagna, che magari al freddo può dare all'inizio una vasodilatazione, quindi si dice bevi un bel bicchiere di vino che ti scalda, però poi c'è l'effetto contrario. E quindi può esserci vasocostrizione. Quindi chi già soffre di problemi di freddo alle mani o al naso, ecco che il vino può dargli anche una complicazione in più su questo. Quindi un bicchiere va bene, ma mai esagerare, tutto fa bene in piccole dosi. Si stanno moltiplicando anche in Alto Adige le corse in montagna in quota. Hai analizzato anche queste e soprattutto quali sono i rischi di chi le affronta? Stanno diventando una sorta di evento di massa, quindi sì. Le faccio perché le fa il mio vicino, le faccio perché c'è molto fai da te, però sono effettivamente, tra virgolette, rischiose per quanto riguarda un approccio non corretto. Direi proprio di sì. Ho sempre amato la montagna, ma vista dal punto di vista esplorativo, mai dal punto di vista della corsa, della gareggiata. Comunque ho seguito anche chi ha fatto qualche gara come skyrunner e gli ho sempre consigliato un'alimentazione mirata da fare ogni ora, a piccoli sorsi e mai appesantire lo stomaco, questo sicuro, a piccoli sorsi per tenere sempre la glicemia a buoni livelli, mai avere il calo, quindi carbogel vanno benissimo, vanno tenuti all'interno della giacca d'inverno per evitare che si congelino, altrimenti non si riesce più ad alimentarsi. Quindi ogni mezz'ora bisogna integrare qualcosa con o un carbogel, attenzione però in questi casi alla caffeina, perché adesso arricchiscono i carbogel tanto con tanta caffeina, che può dare troppa tachicardia per chi va in alta quota. E bere quindi camelback con la cannuccia, bere ogni tot è chiaro che ci sono persone che fanno anche mille, se sono allenate, fanno anche 1000 metri di dislivello senza mangiare. Chi più è allenato e meno ha bisogno di integrare. Anche se voglio ottenere dei buoni risultati, allora devo curare bene l'alimentazione. Ci sono anche delle gare ai paletti orari dove danno dei cibi. Attenzione, perché spesso se si trova sul tavolo un alimento che non si è mai assaggiato come integratore e lo si assume, può avere degli effetti strani sul nostro corpo. Quindi bisogna provare sempre prima. Esiste anche per chi va in quota la cosiddetta crisi di fame, che è una caratteristica per dirti del ciclismo, di chi non si alimenta bene o non si idrata bene? Sì, esiste, è vero, perché oltre una certa quota l'insulina, che è l'ormone che lavora per far entrare la glicemia nelle cellule, oltre i 3.000-4.000 metri l'insulina lavora molto, lavora ancora di più, perché il pancreas lavora di più. Quindi si hanno più cali di zucchero oltre una certa quota rispetto alle quote base. È per questo che nel metodo che ho studiato ho ideato che i carboidrati sono la prima cosa da mettere nello zaino. La prima cosa sotto forma di liquidi, perché quando vai oltre i 4.000 metri hai la nausea, non riesci ad alimentarti, la secchezza delle mucose. Avete visto Danilo Callegari nel filmato, le labbra? È difficilissimo alimentarsi a quelle quote. Più i cibi sono liquidi, e meglio si riesce ad assumerli semisolidi. Il pane non riesce a mangiarlo perché non hai le ghiandole salivari che producono un'adeguata quantità di saliva, non riesci proprio a masticare, quindi più le cose sono liquide meglio è. Quindi carboidrati con maltulosio, isomaltulosio, fruttosio, il miele va benissimo anche in altissima quota, e la crisi ipoglicemica, cioè di glicemia, c'è anche come per i ciclisti. In quota e sotto sforzo c'è il rischio di perdere la percezione del limite. Può succedere anche di perdere la percezione di doversi idratare e alimentarsi correttamente? Sì, soprattutto quando si vuole raggiungere la meta a tutti i costi. Questo ci porta in una condizione che non è più la realtà, si va oltre la realtà. E quindi possiamo anche pensare che il nostro corpo non ha più bisogno di bere o di mangiare, e invece no, è proprio lì che sbagliamo. E allora poi subentra il calo, perché l'alimentazione, l'integrazione adeguata, soprattutto bere a piccoli sorsi e spesso, è quello che ci aiuta a non avere il calo proprio anche fisico. Chiedo una cosa, io anni fa ho fatto un giro, il giro di Civetta, 14 ore, no? Sì. E mi sono trovato che al pomeriggio ho finito l'acqua. Sì. Caldo, praticamente dalle 2 del pomeriggio fino alle 10 di sera quando sono arrivato al campeggio, non avevo più bevuto, eccetera. Era trovato... in estate? In estate. Estate, sì. Ho bevuto da ruscello, cioè, e ho avuto un problema di 5 giorni di stipsi, che ho dovuto andare all'ospedale. Perché mi si era indurito tutto nell'intestino. Ma poi le avevano diagnosticato qualcosa dal punto di vista di infezioni batteriche o no? No, niente. Acqua, ho dovuto fare supposti di vaselina. Sì. È stata una cosa. Allora, probabilmente era disidratato. Sì, era, ecco. Un'altra cosa volevo dire. Mi viene in mente quando parlava prima dei rifugi, eccetera. Il buon uso di 30 anni fa, mi ricordo, nei rifugi che arrivavi, da mangiare c'è solo la minestra d'orzo, sì. C'era solo... quello che c'è adesso nei rifugi è una cosa allucinante, esatto. Cioè è tutto il contrario di quello che si dovrebbe fare. La butto lì, però secondo me il CAI dovrebbe dare delle indicazioni. Stiamo facendo. Stiamo lavorando, non è perché, facile. Perché, esatto, non è facile, però secondo me... mediando si riesce anche... Infatti a noi, dai nostri rifugi, stiamo già dando delle linee del problema, sono i rifugi privati, perché sì. Che fanno gourmet ormai fanno tutto quello. Vanno a prendere i turisti col pullman, li portano in quota e gli danno crostacei, pesce, mamma, e fanno perché adesso è diventato una sorta di nuovo business. Adesso sta diventando un nuovo business. Comici, ad esempio, gestito da... Cioè, quella buon uso, veramente io mi ricordo sempre le minestre d'orzo, quella limite dentro il Würstel, ma c'era le minestre pastita, c'erano delle cose che giustamente sì. L'alpinista, il rifugista adeguate. Sapeva quello adeguate. Che serviva. Appropriate e adeguate. C'è una stagionalità cui bisogna assumere dei cibi piuttosto che altri, inverno piuttosto che estate. Certamente, in estate frutta e verdura anche fresca si possono mettere nello zaino e quindi si possono, tipo mandarini vanno benissimo, le albicocche vanno molto bene d'estate perché sono anche ricche di liquidi e i pomodori vanno molto bene, pomodori di ciliegina piccolini che sono leggeri si possono mettere, quindi invece d'inverno la frutta e la verdura è meglio evitarla nello zaino fresca perché congela. Quindi si deve passare alla frutta e disidratata, quindi la mela. Se d'estate porto una mela colta anche il giorno prima dall'albero, voi avete un sacco di meleti. D'inverno invece è meglio portare la mela disidratata, perché non ghiaccia. Dal punto di vista delle calorie, dei principi nutrizionali, e dei sali minerali non cambia tanto perché la mela è molto ricca anche di vitamina A, di calcio e di magnesio e fa molto bene, soprattutto disidratata perché si concentra molto. E in estate chiaramente sui lunghi percorsi bisogna controllare che ci siano dei punti di riferimento per l'acqua, se non abbiamo la possibilità di portarne tanta nello zaino, perché noi nutrizionisti diciamo bisogna bere 4-5 litri, ma voglio vedermi mettere 4-5 litri di acqua nello zaino, è impossibile, quando ne ho un litro è più che sufficiente, so che poi la posso rifornire e quindi sul percorso, quindi studiarsi bene il percorso. Perché adesso le cartine, soprattutto da tabacco, indicano le sorgenti. Ecco. Il tuo orientamento è più per prodotti naturali piuttosto che chimici, piuttosto che i gel, piuttosto che tutte queste sostanze che ci sono in commercio, questi integratori che ci sono in commercio. Sì, perché oggi si spinge tanto per l'integrazione, ma finché si fa una gita di 1 o 2 giorni non serve fare integrazione con prodotti chimici. E poi anche perché ho studiato la composizione di alcuni cibi e sono completi di tutto. Se io vi faccio vedere la tabella delle mandorle, delle noci, che ce l'ho, una cosa velocissima che è qua, voi capite da soli che è ricchissima, ce l'ho qua, eccola qua, aspetta, come una barretta, eccola qua la tabella, guardate la composizione, orca no, non è mica questo. Ecco qua, guardate la composizione di queste mandorle, per esempio. Proteine, zuccheri, carboidrati, vitamina E, calcio e poi ancora il selenio, il ferro. Guardate le noci di queste noci qua, noci del Brasile, le nocciole, vitamina E, tiamina, rame, acido fitico con un potente antiossidante. Guardate le calorie per 100 grammi, 500, 600. Importante è mangiare piccole dosi e frequenti, magari a metà mattina anche nella vita quotidiana. Metà mattina sono ricchi di omega 3, quindi metà mattina al posto di prendere le barrette, quelle prodotte chimicamente, che magari adesso le utilizzano per le diete, salto il pasto e mangio quello, un pugno di noci, mandorle, mezza mela e un pochino di pane nero è l'ideale, è quello che serve. Acqua più o acqua senza niente? Acqua più integratore o... Ecco, allora, se dipende quello che voglio ottenere dal mio corpo. Se sto facendo appunto una gara, allora non posso dire che l'acqua è sufficiente. Devo mettere i sali minerali, devo mettere le maltodestrine, che sono carboidrati, e l'isomaltulosio. Se invece vado a fare una camminata in montagna, un'escursione, l'acqua, magari un pochino di limone, un pizzico di sale, è più che sufficiente. Proprio una cosa minima, perché poi mangio bene il giorno prima, quando rientro mi integro, non mi serve altro. D'inverno il tè è meglio perché è caldo, è meglio il tè dell'acqua. Tra i tuoi consigli, quali cose oltre all'alcol non bisogna assolutamente fare? Allora, non bisogna assolutamente fare è prendere sotto gamba le situazioni, quindi magari pensare di riuscire a arrivare in cima a una montagna senza avere nulla da mangiare nello zaino, perché adesso tanti partono anche così, senza aver guardato magari sulla cartina il sentiero, se c'è un rifugio, cioè se c'è un punto di riferimento, e partono non attrezzati, quindi assolutamente non fare questo, si deve tornare un pochino indietro. Tant'è vero che racconto settimana scorsa sopra casa mia, che saranno 300 metri, 400 metri di dislivello dal lago, si è persa un'intera famiglia, ma nei boschi dove andavo io a giocare, si sono persi, non trovavano più la strada di ritorno, hanno chiamato soccorso alpino. Quindi anche questo è da evitare, quindi se non siamo in grado di andare in certi ambienti, non dobbiamo andarci per la voglia di esplorare o comunque di mettere alla prova le nostre capacità. Dobbiamo sapere i nostri limiti. Tu pensate che su questo io non ho problemi, che l'unica volta che sono andato con mia moglie, l'ho portato niente a mangiare, ho rischiato il divorzio, perciò da quel giorno la scorta sempre dietro, perché era diventata cattivissima. Beh, cioè, so dove c'è un rifugio. Può capitare che magari il rifugio era chiuso, si pensava, è capitato anche a me, però io ho sempre qualcosa nello zaino anche per gli altri, cioccolato ce l'ho sempre per gli altri. Infatti io lo zaino che pesa tanto, anche quello non è corretto, però ho sempre qualcosa in più anche per gli altri, se capita lo offro, perché comunque arrivare e trovare il rifugio chiuso non è il massimo se non si ha niente da mangiare. Qualche caramella in tasca va sempre tenuta. Quelle pastiglie di zucchero, quelle che sono dextrosio, sì. Quelle anche vanno bene, no? Sì, quelli vanno bene in emergenza, si possono tenere in tasca, sì. Soprattutto chi sa che soffre di cali di zuccheri, quello sì. E soprattutto chi non è allenato ad andare in montagna, magari è un anno che non va in montagna, riprende ad andare, fa un po' più fatica, ha bisogno di integrare un pelo di più. Magari qualcuno che è un po' in sovrappeso, che fa fatica ad andare in montagna, ecco che allora deve tenersi qualcosa in più rispetto a un altro che è più magro, che è più atletico, perché l'altro ha bisogno meno, mentre questa persona ha bisogno di un pelo di più. I bambini, importantissimo, i bambini sono a rischio quando vanno in montagna, perché loro non sanno ancora quando devono mangiare, come. Loro iniziano a mangiare subito, dopo mezz'ora che camminano si fermano per tornare, iniziano a tirar fuori i panini, di tutto, e poi si riempiono, non riescono più a camminare. Invece dobbiamo insegnare noi cosa fare, quindi non abbuffarsi, ecco. Una curiosità personale, tra i vari stili di alimentazione, tu hai fatto una ricerca molto ampia, approfondita, qual è quello che ti ha sorpreso di più? Hai dovuto, tra l'altro, fare sintesi e analizzare una serie di stili alimentari a 360 gradi in una realtà globalizzata con delle culture diverse, sia alimentari non solo, magari anche condizionate dall'aspetto religioso e quanto altro. Qual è l'aspetto che ti ha sorpreso di più? Gli abitanti del Pamir, perché in Pamir è un altopiano, non c'è nulla, non c'è un deserto, non c'è nulla, vivono lontano dal centro abitato, intende, eppure sanno trarre da una natura così selvaggia tutto quello che serve per poter vivere. Dal latte di yak ricavano di tutto, dallo yogurt ai formaggi lo fanno loro, dalla pecora anche, hanno le pecore e accendono il fuoco con poco che non hanno piante, non hanno alberi, con quello che trovano e cucinano ancora con pentole vecchissime, davvero sembra di essere negli anni 60, 50, 60, che sono nere perché le mettono sopra il fuoco, eppure riescono a cavar fuori delle pietanze straordinarie, delle minestre buonissime con le patate, poche cose hanno, patate, carote, e hanno poca verdura perché la prendono una volta al mese che vanno in paese, eppure mangiano il pane fatto con della farina e del sale e vivono così, non hanno bisogno di altro. Diciamo che noi siamo l'esatto contrario. Sì, l'alimentazione di oggi, chiaro, abbiamo tanto, sulle nostre tavole c'è sempre di più di quello che ci serve, quello sì, Siamo abituati bene, siamo abituati a bere tanto, a trovare tutto al supermercato e forse dovremmo tornare un po' indietro al chilometro zero, ci farebbe bene anche al nostro corpo, oltre che l'interscambio umano, perché poi... non è facile. Poco conto. Quindi ottimizzazione, sì. Razionalità, concretezza. Sì, questi sono... E senso di responsabilità, sì. Innanzitutto. Vostre domande, ci sono riflessioni, curiosità? Nonostante sono abbastanza preoccupato, certo, c'è soltanto alcune cosine, infatti mi trovo che fa piacere sapere di aver ragione, ecco, sì, di aver fatto le cose. Sì. Allora, sì. Magari con te vediamo di condividere un attimo, concludendo il pensiero che facevano loro. In effetti i rifugi di montagna stanno diventando degli autentici business, nel senso che è la nuova frontiera del cuoco stellato. Questo è un rischio per quanto riguarda l'aspetto alimentare. Il cuoco stellato ormai ha preso possesso di alcuni rifugi. Sì, l'unica cosa è che non si mangia niente. Sì, non si mangia niente, ma magari si può. Magari poco. Tornando a quello che dicevi tu prima, nel senso del tornare un attimino facendo un passo indietro, ci può stare anche questa riflessione, facciamo un passo indietro, la montagna è la montagna, le tradizioni anche alimentari dovrebbero essere mantenute, conservate, salvaguardate e quanto altro. Bisogna guardare la montagna con occhi diversi, io non sono capace, sono onesta in questo, vedo ancora la montagna un po' come la vedeva mio nonno e quindi sono un po', questo sono onesta. Che però la vera montagna. Che è la vera montagna. D'altra parte cioè, l'evoluzione ci permette anche questo e quindi magari con il tempo riuscirò a cavar fuori qualcosa di bello e di utile anche da qua. Ci devo pensare. Allora, chiudiamo con uno o più motivi per leggere il tuo manuale, che è di una semplicità stupenda, perché proprio è a misura e a fruibilità. Sì. Di tutti. Il mio intento era proprio quello, di scrivere qualcosa di semplice. Non è fatto, io lo dico, per i nutrizionisti o per i dietologi, perché non troveranno quello che cercano, perché queste cose le sanno già. Sarà contento invece chi magari vuole approfondire un po' di più i concetti che sa già e capire il perché deve fare così e non cos'ha. Io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Grazie mille.